Alcuni che non incontrai mi scrissero per chiedermi cosa pensassi di quei due matrimoni, proprio come avrebbero aperto un'inchiesta sull'altezza dei cappelli delle signore a teatro o sul romanzo psicologico. Non ebbi il coraggio di rispondere a queste lettere. Di quei due matrimoni non pensavo niente. Però provavo un'immensa tristezza, come quando due parti della nostra esistenza passata, ormeggiate accanto a noi e sulle quali fondiamo forse pigramente, giorno per giorno, qualche speranza inconfessata, si allontanano definitivamente con uno schioccare gioioso di Oriflamme per destinazioni straniere, come due vascelli. Quanto agli interessati, ebbero del proprio matrimonio un'opinione affatto naturale, dal momento che non si trattava degli altri, ma di loro. Di quei grandi matrimoni fondati su una tara segreta si erano sempre beffati a non finire, e persino i Cambremeti, casata così antica e di pretese così modeste, sarebbero stati i primi a dimenticare Jupien e a ricordarsi soltanto delle grandezze inaudite della casa d'Oloron, se non si fosse verificata un'eccezione nella persona che più d'ogni altra si sarebbe dovuta sentire lusingata da quel matrimonio, la marchesa di Cambremer-les-Grandins. Ma, cattiva di natura, anteponeva il piacere d'umiliare i suoi a quello di esaltare se stessa. Così, non amando il figlio e avendo preso ben presto in uggia la futura nuora, dichiarò che era una disgrazia per un Cambremer sposare una persona che, in fin dei conti, veniva da chissà dove e aveva i denti così in disordine. Quanto alla propensione del giovane Cambremer a frequentare dei letterati, come Bergotte, per esempio, e lo stesso Bloch, si può immaginare che un così brillante matrimonio non abbia avuto come effetto di renderlo più snob, ma che adesso, sentendosi il successore dei duchi d'Oloron, principi sovrani, come dicevano i giornali, fosse abbastanza persuaso della propria grandezza da poter frequentare chi che sia. E lasciò la piccola nobiltà per la borghesia intelligente nei giorni in cui non si consacrava alle altezze. Per quanto concerneva in particolare Saint-Loup, quelle note dei giornali diedero al mio amico, di cui si elencavano gli antenati e regali, una nuova grandezza che, peraltro, non fece che rattristarmi, come se fosse diventato qualcun altro, il discendente di Roberto il Forte, più dell'amico che così poco tempo prima s'era seduto sullo strapuntino della carrozza perché io stessi più comodo sul fondo. Non aver sospettato nulla in anticipo del suo matrimonio con Gilberte, apparso all'improvviso in quella lettera, così diverso da tutto ciò che avevo potuto pensare di ciascuno di loro sino a quel momento, inopinato come un precipitato chimico, mi faceva soffrire. Mentre avrei dovuto pensare che aveva certo avuto molte cose da fare e che d'altronde nel gran mondo i matrimoni si fanno spesso così, all'improvviso, spesso in sostituzione d'un progetto diverso e non riuscito. E la tristezza, cupa come un trasloco, amara come la gelosia, che quei due matrimoni mi provocarono con la rudezza, con l'asperità della loro sorpresa, fu così profonda che mi venne poi ricordata, ascrivendola assurdamente a mio merito, come se fosse stata l'esatto contrario di ciò che fu in quel momento, come un doppio e addirittura triplo e quadruplo presentimento. Le persone di mondo che non avevano prestato la minima attenzione a Gilberte mi dissero con aria gravemente interessata: «Ah, è lei che sposa il marchese di Saint-Loup», e la osservavano con lo sguardo attento di chi non soltanto è ghiotto dai fatti della vita parigina, ma cerca anche di istruirsi e crede alla profondità del proprio sguardo. Quelli che, al contrario, non avevano conosciuto che Gilberte, guardarono Saint-Loup con estrema attenzione. Mi chiesero, persone spesso che mi conoscevano appena, di presentarli. E tornavano dalla presentazione al fidanzato circonfusi delle gioie della festività, dicendomi «Che magnifica persona!». Gilberte era convinta che il nome di Marchese di Saint-Loup fosse mille volte più grande di quello di Duca d'Orléans. Ma poiché apparteneva innanzitutto alla sua generazione spirituale, piuttosto sull'uguaglianza, volle mostrare che non aveva meno spirito delle altre e si divertì a dire «Mater Semita», aggiungendo, per essere ancora più spiritosa, «Per me invece si tratta del Pater». Sembra che sia stata la principessa di Parma a combinare il matrimonio del giovane Cambremé, mi disse la mamma, ed era vero. La principessa di Parma conosceva da tempo di fama, da un lato Le Grandin, che giudicava un uomo distinto, dall'altro Madame de Cambremé, che cambiava discorso quando la principessa le chiedeva se fosse la sorella di Le Grandin. La principessa sapeva quale cruccio avesse Madame de Cambremé d'essere rimasta alla porta dell'alta società aristocratica dove nessuno la riceveva. Quando la principessa di Parma, che s'era presa l'incarico di trovare un partito per Mademoiselle d'Oloron, chiese al signor di Charlieu se sapesse chi era un uomo gentile e istruito che si chiamava Le Grandin di Meseglise, era così che si faceva chiamare adesso Le Grandin, il barone dapprima rispose di no, poi di colpo si ricordò di un viaggiatore che aveva conosciuto una notte in treno e che gli aveva lasciato il suo biglietto. Ebbe un vago sorriso. Forse è lo stesso, si disse. Quando seppe che si trattava del figlio della sorella di Le Grandin, osservò: «To sarebbe davvero straordinario. Se avesse preso dallo zio, dopo tutto non mi farebbe paura. Ho sempre detto che sono loro i migliori mariti». «Loro chi?» chiese la principessa. «Oh, signora, vi spiegherei tutto se ci vedessimo più spesso. Con voi si può parlare. Vostra Altezza è intelligente», rispose Charlie, preso da un bisogno di confidenza che peraltro non si spinse più in là. Il nome di Cambremé gli piacque, sebbene non ne amasse i genitori, ma sapeva che era una delle quattro baronie di Bretagna e quanto di meglio potesse sperare per la figlia adottiva, un nome vecchio, rispettato, con solide parentele nella provincia. Era quello che ci voleva. In seguito la principessa fece venire Le Grandin. Fisicamente era da qualche tempo piuttosto cambiato e con un certo vantaggio. Come le donne che sacrificano risolutamente il viso alla sveltezza della figura e non lasciano più Marien Bad, Le Grandin aveva assunto l'aspetto disinvolto di un ufficiale di cavalleria. A mano che il signor di Charlieu si era appesantito e fatto lento, Le Grandin era diventato più slanciato e rapido, effetto contrario d'una medesima causa. Quella velocità aveva, d'altronde, ragioni psicologiche. Aveva l'abitudine d'andare in certi brutti posti dove preferiva che non lo si vedesse né entrare né uscire. Ci si buttava dentro. Quando la principessa di Parma gli parlò dei Guermantes, di Saint-Loup, dichiarò che li conosceva da sempre, facendo una specie di miscuglio tra il fatto di conoscere da sempre di nome i castellani di Guermantes e di aver incontrato di persona, in casa di mia zia, Swann, il padre della futura Madame de Saint-Loup, quello Swann di cui a Combray, peraltro, Le Grandin non voleva frequentare né la moglie né la figlia. «Ho anche viaggiato di recente con il fratello del duca di Guermantes, il signor di Charlieu. Lui stesso, spontaneamente, ha iniziato la conversazione, il che è sempre un buon segno, perché vuol dire che uno non sta sulle sue, che non è uno sciocco pieno di pretese. Oh, so tutto quello che si dice di lui, ma io non ci credo mai a queste cose. D'altronde, la vita privata degli altri non mi riguarda. Mi ha fatto l'impressione di un sensibile, di un cuore ben coltivato». A questo punto la principessa di Parma parlò di Mademoiselle d'Oloron. Nel giro Guermantes ci si commuoveva sulla nobiltà d'animo del signor di Charlieu che, buono com'era sempre stato, faceva la felicità di una fanciulla povera e affascinante. E il duca di Guermantes, che soffriva della reputazione del fratello, lasciava capire che era bello, sì, ma perfettamente naturale. «Non so se mi spiego, è tutto naturale in questa storia», diceva, maldestro a forza d'essere abile. Ma il suo scopo era di sottolineare che la fanciulla era figlia di suo fratello, che così la riconosceva. Nello stesso tempo, in questo modo, si spiegava Jupion. La principessa di Parma insinuò questa versione per mostrare alle Grandin che, in fin dei conti, il giovane Cambremé avrebbe sposato una specie di Mademoiselle de Nantes, una di quelle bastarde di Luigi XIV che non furono disdegnate né dal duca d'Orléans né dal principe di Conti. I due matrimoni di cui parlavamo con mia madre sul treno che ci riportava a Parigi ebbero su alcuni dei personaggi apparsi sin qui in questo racconto effetti piuttosto considerevoli. Innanzitutto su Le Grandin. Inutile dire che entrò come un uragano nel palazzo del signor di Charlieu, esattamente come in una casa malfamata dove non bisogna essere visti e anche, al tempo stesso, per mostrare il suo coraggio e nascondere la sua età, perché le nostre abitudini ci seguono anche dove non possono più servirci. E quasi nessuno notò che nel salutarlo il signor di Charlus gli rivolse un sorriso difficile da cogliere, più ancora da interpretare, un sorriso simile in apparenza e nella sostanza perfettamente opposto a quello che i due uomini abituati a incontrarsi nella buona società si scambiano se per caso si incontrano in un luogo indegno, per esempio l'Eliseo, dove il generale de Froberville, quando un tempo vi incontrava Swann, gli lanciava scorgendolo lo sguardo di ironica e misteriosa complicità di due abitué della principessa de Lhomme che si abbassano al livello del signor Crévy. Ma la cosa notevole fu il reale miglioramento della sua indole. Le Grandin coltivava oscuramente da molto tempo, da quando io bambino passavo le vacanze a Combray, relazioni aristocratiche che gli fruttavano al massimo un invito isolato a una villeggiatura infeconda. Di colpo, il matrimonio di suo nipote aveva ricongiunto fra loro quei due lontani tronconi e le Grandin ebbe una posizione mondana a cui le sue vecchie relazioni con persone che lo avevano frequentato solo in privato, ma intimamente, diedero retrospettivamente una sorta di solidità. Signore a cui si supponeva di doverlo presentare raccontarono che da 20 anni passava 15 giorni in campagna da loro e che il bel barometro antico del salottino era un suo regalo. Per caso era stato fotografato in qualche gruppo dove figuravano dei duchi con cui adesso era imparentato. Ebbene, non appena ebbe questa posizione mondana, Le Grandin smise di approfittarne. Non soltanto perché, ora che lo si sapeva ben introdotto, non provava più alcun piacere ad essere invitato, ma perché dei due vizi che se l'erano a lungo disputato, il meno naturale, lo snobismo, cedeva il posto almeno artificioso, dal momento che segnava almeno una sorta di ritorno, sia pure tortuoso, verso la natura. È vero che non sono incompatibili e che l'esplorazione di un sobborgo la si può fare venendo via dal ricevimento di una duchessa, ma il raffreddamento dell'età sconsigliava Le Grandin di accumulare tanti piaceri, di uscire di casa se non a ragion veduta, e gli rendeva abbastanza platonici anche quelli della natura, i quali consistevano soprattutto in amicizie, in conversazioni che portano via tempo, e facendogli passare quasi tutto il suo in mezzo alla gente del popolo, gliene lasciavano poco per la vita di società. Persino Madame de Cambremer divenne abbastanza indifferente alle cortesie della duchessa di Guermont. Costei, costretta a frequentare la marchesa, si era accorta, come succede ogni volta che si vive di più con un essere umano, cioè composto di qualità che si finisce per apprezzare e di difetti cui si finisce per abituarsi, che Madame de Cambremer era una donna dotata di un'intelligenza e provvista di una cultura che, per parte mia, apprezzavo poco, ma che parvero notevoli alla duchessa. Andò spesso, dunque, sul calare del giorno, a far visita a Madame de Cambremer, trattenendosi a lungo da lei. Ma il fascino meraviglioso che quest'ultima aveva attribuito alla duchessa di Guermont svanì non appena vide che la cercava, e la riceveva più per cortesia che per piacere. Un cambiamento più sorprendente si manifestò in Gilberte, al tempo stesso simmetrico e diverso rispetto a quello che s'era verificato in Swann dopo il matrimonio. I primi mesi, certo, Gilberte era stata felice di ricevere in casa sua la migliore società. Molto probabilmente, solo per via dell'eredità, invitava gli amici intimi a cui teneva sua madre, peraltro solo in certi giorni in cui non c'erano che loro, tenuti in disparte e ben lontani dalle persone chic, come se il contatto di Madame Bontemps o di Madame Cottard con la principessa di Guermont o con la principessa di Parma avesse potuto, non diversamente da quello fra due polveri instabili, provocare catastrofi irreparabili. Ciò non precludeva ai Bontemps, ai Cottard e ad altri, benché delusi di pranzare fra loro, la fierezza di poter dire «abbiamo pranzato dalla Marchesa di Saint-Loup», tanto più che qualche volta si spingeva l'audacia sino ad invitare assieme a loro Madame de Marsan, la quale si mostrava in veste d'autentica grandama con tanto di ventaglio di tartaruga e piume nell'interesse dell'eredità. Si limitava a fare, di tanto in tanto, l'elogio delle persone discrete che si fanno vedere solo quando le si chiama, avvertimento per mezzo del quale impartiva a buoni intenditori del genere Cottard, Pontamp, eccetera, la più graziosa e altera delle benedizioni. Forse a causa della mia amichetta di Balbec, dalla cui zia mi sarebbe tanto piaciuto essere visto in quell'ambiente, avrei preferito essere incluso in quella serie. Ma Gilberte, per la quale adesso io ero soprattutto un amico di suo marito e dei Guermantes, e che forse sin da Combré, dove i miei genitori non frequentavano sua madre, mi aveva dotato, all'età in cui non soltanto si attribuisce alle cose un determinato valore, ma le si classifica per specie, di quel prestigio che poi non si perde più, considerava quelle serate come indegne di me. E quando andavo via mi diceva: «Sono stata felice di vedervi, ma venite piuttosto dopodomani. Vedrete mia zia Guermantes, Madame de Poix. Oggi erano amiche della mamma, per far piacere alla mamma».